in primo piano. Buongiorno a tutti, sono Lucia Annunziata e alcuni degli argomenti per l'appunto che vi sono stati annunciati per l'approfondimento stamattina sono stati anche scelti da me. Avrete notato, per chi mi ha seguito in questi primi 3 giorni della settimana, che abbiamo dedicato moltissimo spazio alla politica, anche per ragioni ovvie. La settimana è stata dominata dalla sconfitta in Sardegna prima, dalle dimissioni di Walter Veltroni, segretario del PD ieri. Oggi sceglierei di voltare pagina, cioè nel senso che c'è anche un eccesso ormai di politica sui giornali o di discussione politica, che a questo punto non è, anche se in prima pagina secondo me non è rilevante. Si scioglieranno in questa settimana altri nodi nel PD, in particolare sabato si deciderà con la conferenza nazionale cosa fare, se andare a un reggente o meno, ma oggi per l'appunto sceglierei per voi altri temi che secondo me hanno una portata maggiore, anche se sono meno probabilmente visibili, delle tragedie della politica. Dunque, due temi che in qualche modo hanno origine in America e si proiettano fortemente in Italia. La prima ha a che fare con il piano economico, le misure economiche approvate dal nuovo presidente Obama. Oggi sul Sole 24 Ore è in primo piano la proposta annunciata ieri di Obama di stanziare fino a 275 miliardi di dollari per sostenere 9 milioni di famiglie in crisi con i mutui. Ma questa è solo la seconda, il secondo annuncio. In realtà quello che ha segnato questa settimana, e non abbiamo avuto tempo appunto di discuterlo, è stata la proposta dell'approvazione di uno stimolo fiscale di 787 miliardi di dollari e un pacchetto di salvataggio del sistema finanziario americano. Ora, la notizia legata a questi imponenti interventi statali è che in realtà il mercato finora almeno non ne ha avuto fiducia. Come mai? Scelgo di spiegare questo proprio con con l'editoriale che apre oggi il Sole 24 Ore, firmato da Carlo Bastasin. Intanto, dice Carlo Bastasin, l'effetto placebo del G7 è durato solo qualche ora. L'economia globale e i mercati finanziari sono tornati preda della sfiducia. Ci ricorda appunto, calino le capitalizzazioni di banche e imprese, aumenta il rischio di instabilità in molti paesi. Le dimensioni di questa crisi vengono ricordate da Bastasin con due esempi che abbiamo tutti molto presenti, cioè in Giappone il PIL cala al ritmo del 12% annuo, in Cina l'import è sceso del 47%, mentre in Europa si rivedono le stime del reddito mese per mese. Non credo che a chi mi sta ascoltando oggi qui ci sia bisogno di sottolineare l'importanza del calo dell'import del 47% in Cina, ma anche per chi non lo sa è abbastanza evidente che la Cina, che è stato sognato come il grande mercato risolutore di tutta una serie di questioni economiche dell'Occidente, insomma è a una battuta d'arresto serissima in questo momento, che si riflette appunto sulle nostre economie. Dice allora Bastasin, riprendo, si fa strada a questo punto rispetto a questa enorme crisi l'idea di un governo comune dell'economia europea per evitare il default di alcuni paesi, mentre USA ed Europa si ipotizzano target coordinati per le banche centrali. Ma la prima, per importanza delle scelte antiologiche, è nazionalizzare le banche americane. Sono cioè in atto, questo lo dico io, la crisi sta portando, dice Bastasin, ne faccio più o meno una semplificazione, sta portando di fatti a prendere una serie di misure che erano praticamente considerate impossibili ormai nel clima degli ultimi anni, tutti, come ricordate, sottesi da una fortissima ideologia di libero mercato e di mercato che si autoregola, come per esempio ha sempre sostenuto uno degli uomini che nella passata decade ha segnato fortemente la ideologia del mondo, che è Alan Greenspan, che era appunto il grande sacerdote dell'autoregolazione dei mercati. Dice, ai fini di salvare le banche, che è una questione diversa dallo stimolo economico, serve o non serve? Si chiede Bastasin. Serve o non serve la decisione di nazionalizzare le banche? Bastasin sostiene, sono due questioni diverse. Le banche, infatti, il progetto di Obama è apparso subito in difetto. Vediamo un po' perché. Lui dice: la stima dei prestiti a rischio dai 2.000 ai 3.000 miliardi di dollari significa che molte tra le maggiori banche americane sono di fatto insolventi e nessun stimolo fiscale, per quanto grande, ecco questo è il punto, può rimettere in moto un'economia se il sistema finanziario non è in grado di far circolare denaro. Dunque, il fronte, la manovra, in sintesi, la manovra di Obama, sostiene Bastasin, non sarà probabilmente in grado di portare a una soluzione di quello che è il lato più esposta, a meno che per l'appunto non si pensi a un minimo di passaggio tecnico, cioè dice appunto in Germania per esempio la nazionalizzazione delle banche sarà un passaggio a periodo. E a meno che, e questa è appunto la spiegazione del suo titolo, del titolo del suo editoriale, non ci sia anche un obbligo di trasparenza che deve essere imposto con qualsiasi mezzo alle banche che oggi stanno nascondendo le tare dei bilanci per proprio vantaggio. La temporanea nazionalizzazione di una parte rilevante del sistema bancario americano, oltre che salvare l'economia mondiale, deve servire proprio a ricreare un nuovo rapporto tra mercato e informazione, tra proprietà e trasparenza, tra rischio e controllo. Si tratta di una scelta politica favorevole alla partecipazione informata di ogni cittadino alla vita economica, che non ha alcun senso, per la quale, contro la quale non ha alcun senso evocare l'Unione Sovietica, perché rappresenta al contrario un'evoluzione desiderabile della moderna democrazia. Dunque, potremmo dire, stati attenti, l'America propone oggi misure eccezionali anche rispetto alla propria tradizione ideologica. Sono necessarie queste misure a patto che siano temporanee e a patto che siano trasparenti, perché nel mondo delle banche, dice Bastasin, ci sono ancora molte zone oscure che non conosciamo. Naturalmente sono completamente d'accordo con lui. Il secondo tema che scelgo per voi invece è trattato da tutti i giornali, ma è trattato in prima pagina dall'Avvenire e ha a che fare anche questo con l'America. Sapete che in questi giorni è stata in Italia Nancy Pelosi, speaker della Camera USA, quindi come da noi la terza carica dello Stato. Nancy Pelosi ha fatto vari incontri e ieri è stata dal Papa. Un incontro che non è un incontro coi capi di Stato, non è un incontro, diciamo, ufficiale, perché quello viene soltanto, diciamo, applicato ai capi di Stato, ma è stata una udienza particolare durata 15 minuti. In questa udienza il Papa è tornato a ribadire che la legge naturale e l'insegnamento della Chiesa esigono la tutela dell'esistenza umana dal concepimento alla morte naturale. Che cosa si vuol dire con questo? Si vuol dire molto semplicemente che il Papa è tornato a ricordare a Nancy Pelosi che la sua discordia rispetto al modo con cui Obama ha iniziato ad affrontare le questioni appunto dell'aborto, le questioni della ricerca scientifica sulle cellule staminali e insomma tutte le tematiche che hanno a che fare con la vita e la scienza. Questo è un punto molto delicato, è un punto delicato perché rischia di portare il Papa su un fronte di collisione con in fondo la più importante nazione del mondo, ma il Papa non sembra tornare indietro, anzi ha fatto, come dice l'Avvenire, un discorso che sembra offrire una base possibile di dialogo, dicendo che il problema della vita e della morte non è una questione di cattolici né di laici, ma anzi di tutti. Cioè il Papa ieri ha cercato, dice l'Avvenire, di fare uscire queste tematiche dall'ambito della fede, nel senso dall'ambito della cerchia dei grande cerchia dei fedenti, dei credenti, per invece sottolineare che è un compito di tutti. Leggiamo un attimo molto interessante il comunicato che ha emesso poi dopo l'incontro il Vaticano. Ne leggo un pezzo. Sua Santità ha colto l'occasione per illustrare che la legge morale naturale e il costante insegnamento della Chiesa sulla dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, impongono a tutti i cattolici, specialmente ai legislatori, ai giuristi e ai responsabili del bene comune della società, di cooperare con tutti gli uomini e le donne di buona volontà per promuovere un ordinamento giuridico giusto, inteso a proteggere la vita umana in ogni suo momento. Come accennato, commenta l'Avvenire, Benedetto XVI sembra aver voluto porre una volta di più l'accento sul fatto che il tema della difesa della vita non è il punto di discrimine tra credenti e non credenti, ma casomai dovrebbe essere il contrario. Molto importante questo sviluppo del Vaticano nel rapporto con il resto del mondo. Ho ancora un minuto, vi annuncio semplicemente quale sarà la seconda parte. Cosa parleremo la seconda parte? Il pacchetto immigranti. Da una parte ieri hanno trovato, con una grande vittoria della polizia, hanno trovato i due romeni della Caffarella che avevano nel giorno di San Valentino violentato una ragazzina di 15 anni, e dall'altra parte ieri a Lampedusa c'è stata una rivolta che preoccupa lo Stato, il modo con cui noi in questo momento stiamo cercare di arginare l'arrivo dei clandestini. A tra un po'. Due storie allucinanti dunque che vengono dal settore immigrati. Ieri sono stati fermati, grazie a un velocissimo lavoro della polizia, ne parlerò un attimo, gli stupratori della Caffarella, che hanno rivelato una sorpresa. Uno di loro aveva due arresti per rapina con lesione e furto aggravato, più una denuncia per ricettazione collezionati nel giro di 2 settimane tra il 27 ottobre e l'11 ottobre 2007. Una condanna a 5 mesi di carcere arrivata l'8 febbraio 2008. Il prefetto di Roma, in base a queste condanne, l'aveva espulso dall'Italia, ma non è bastata. Arrivato poi il 15 luglio scorso, il giudice onorario del Tribunale Civile di Bologna, Mariangela Gentile, ha annullato il provvedimento della Questura di Palermo. Un caso che fa riflettere, so che ne rifletterete, ne parlerete più tardi per l'appunto in questa stessa fascia, quindi questo aspetto qui lo lascio, è solo uno. Vi voglio soltanto dire che ci sono altri due aspetti legati a questo arresto. Uno è la dichiarazione di uno degli aggressori di San Valentino: l'abbiamo stuprata per dispetto, ne parlano tutti i giornali, il Corriere della Sera lo mette in prima pagina. Una frase del genere, guardate, che dà nuova luce alla questione degli stupri. Non è un fatto sessuale, ma è un fatto anche di vendetta e punizione sociale. Alcune di noi donne lo hanno sempre detto, gli stupri sono tradizionalmente la punizione alla tribù nel loro intero, lo sfregio alle donne e la punizione per il nemico. Questo elemento, che non ha di desiderio sessuale, non ha di niente del perdere i sensi perché ubriachi, eccetera, eccetera, è un elemento che noi troviamo nella storia, sempre nei Balcani recentemente l'abbiamo trovato, nelle guerre di 10 anni fa è stato lo stupro di massa, lo sfregio delle donne è stato praticato da quasi tutti i lati dei combattenti come attacco alle comunità. Ieri è molto interessante questa frase perché è una frase che toglie all'elemento stupro, al sesso, e lo riporta per quello che è, a una arma sociale di guerriglia. L'altra questione di questo arresto, invece, vi consiglio di guardarla, la fa molto bene Massimo Martinelli sulla prima pagina del Messaggero. L'inchiesta, come vedete, è stata per una volta molto veloce, i due sono stati ritrovati, è un'inchiesta dunque che è tempestiva, tant'è vero che uno dei due stava già per scappare ed stava per tornare all'estero, ma è stato preso proprio nella stazione degli autobus. Questa inchiesta, dice Massimo Martinelli, è stata fatta in maniera tradizionale, cioè con i poliziotti che fanno i poliziotti, che si coordinano. Peraltro, importante da sapere è che la polizia romena ha dato una grande mano, il che significa, come dire, che esistono gli strumenti, non sono necessariamente le ronde o gli attacchi o le espulsioni, ma soprattutto, dice Massimo Martinelli, il tipo di inchiesta veloce, efficace, coordinata, fatta con gli strumenti tradizionali, in qualche modo lascia un dubbio sul partito degli intercettazionisti, cioè in Italia si dice sempre togliere le intercettazioni significa togliere la possibilità di fare delle indagini a fondo. Dice Martinelli intelligentemente: guardate, è possibile fare delle inchieste tradizionali anche senza avere, come in questi casi sarebbe stato impossibili, ascolti di telefonini o un microchip e queste robe. Lasciamo qui questa parte, ma ripeto, è un aspetto interessante. L'altra invece faccia della questione degli immigrati sono stati ieri l'incendio e gli scontri scoppiati a Lampedusa, nel centro di Lampedusa. La storia è stata ricostruita a partire da uno sciopero della fame che fanno un gruppo di detenuti che vogliono uscire. Questo fronte dello sciopero si sarebbe speccato a un certo punto, ne sarebbe seguita una rissa interna. Alla rissa hanno risposto gli agenti di polizia che sono arrivati a sedarla, ma al loro arrivo ha scatenato scontri. Ci sono stati un'ora di scontri, 50 feriti. Sono stati appiccati vari fuochi, uno in particolare ha dato alle fiamme una parte del centro di Lampedusa che dovrebbe ospitare 300-350 clandestini. È finita la giornata con la pace, se così si può dire, nel senso che le forze dell'ordine hanno rimesso tutto sotto controllo, trasportando peraltro con un ponte aereo 300 clandestini fuori da Lampedusa. Ma la situazione non si è calmata, la situazione doveva arrivare in questo modo, striscia la questione di Lampedusa sotto la pelle di questo paese, non ce ne accorgiamo tanto perché appunto noi italiani ce ne accorgiamo soltanto quando le cose ci vengono spiaccicate in faccia, ma vi ricorderete che a Lampedusa è stato centro di moltissime inquietudini, tensioni, tentative di fughe, manifestazioni, visite di politici in questo caso più o meno di centro-sinistra, a cui il governo non ha voluto dare grandi risposte. Per chi volesse sapere come si sta in questo posto, rimandiamo un reportage sulla stampa di Francesco Lalicata. Francesco Lalicata è un giornalista che si occupa da sempre di mafia, è una persona, diciamo, super valida, nel senso che professionalmente è una persona a cui non si può mai accusare di esagerazione o di clamorizzazione della notizia, e racconta questo recinto della disperazione che il titolo definisce come una nuova Guantanamo in Italia, e parla di situazioni tipo il 26 dicembre il centro di identificazione e espulsione di Lampedusa raggiunge 1800 ospiti, così si chiamano, in una struttura che può contenere al massimo 350 persone. La capienza di ogni stanza è di 12 persone, se ce ne sono 25. Il campo è presidiato da 430 uomini in tenuta antisommossa. Dunque, insomma, come dire, siamo in una situazione che è sicuramente come dice anche la stampa, una bomba a orologeria. Non solo è una bomba ad orologeria, ma anche, diciamo, una violazione dei diritti umani, questo bisogna dirlo francamente. Abbiamo solo ancora un altro minuto. Vi consiglio di seguire Sanremo, che è sempre molto divertente, ma vi lascio con una nota molto populista fatta, ripresa da Libro, che è un giornale appunto molto populista e per questo molto efficace. Oggi ha pubblicato Libero gli stipendi dei banchieri italiani. Questi sono compensi pre-crisi, però insomma fanno anche un po' di impressione. La classifica d'oro vede al comando Gabriele Galateri, presidente di Mediobanca uscente, con 11 milioni di euro, legati soprattutto agli altri compensi, che sono 8 milioni. A ruota Alessandro Profumo, amministratore delegato di Unicredito, con 9,44 milioni, di cui 6 di bonus e 3 altri compensi. Poi c'è terzo posto Giampiero Auletta Armenisse con 5,73, che è l'AD uscente della UBI Italia Banca, e poi Corrado Passera, amministratore delegato di Intesa San Paolo, con 3,79 milioni. Il famoso Giovanni Bazzoli, presidente di Intesa San Paolo, ha solo 1,36 milioni. Divertitevi con queste notizie. A domani.